ci chiama Alessi e Anguilli. La bella, mi cado già. Anguilli e Camaretti. Ma no, cioè, veramente non è là. Questi uomini di cioccolato dopo a fare. Noi andavamo, ci rimangevamo e poi riempivamo la cassa per lasciare la forma. Possiamo mangiare un cacca ci ha fatto il maturo in mezzo si passa a fare l'auscio con mia sorella pregaia e va bene insalata con riso però che abbiamo fatto lo scherzo la sorella quando veniva il ragazzo a comprare patatine con gli impacchi grandi e siamo arrivati io e Liliana quando eravamo fidanzati ancora prima poi dopo le patatine ce le abbiamo mangiate le abbiamo riempito la busta e poi le abbiamo messo una carta di adesivo per chiudere il pacco. Quindi sono qui la strada, ci hanno mangiato le lungole di calzarella. Mi fa ricordare il fatto del poco delle patatine. E tu tipo ci ho ricato, visto che è quella di casa. Prendo una busta di patatine, me ne ha di lui, ha messo l'acqua dentro, l'ha chiamata con questo tipo Agostino, quello che abita, non si sapete ancora lì, lì è stato di San Francesco. Entravo alle 4, facevo

No, no, no, perché tu sei dito veloce, no? Hai calpestato, come lo fa? Hai detto tu? Sicuramente l'hai sentito tu. No, no, no, l'ho fatto in tempo a sentirlo. Oh, ma il suo GD che mi hai dato cos'è? Gelattaio? E allora? Come è l'ingrediente gelato? Quello è pasticceria Portollella. Maria, grave. Noi gelati c'è mai niente, bobo. Simulazione è quello. Non va male, ma prima di fare l'azione si mangia tutti i gelati, non li mangerà male. Dio Maria, gara. A mo c'è uno qua, già ti pare già nel più rumo, mangia il gelato. Mi ammazzo. E io non mangio freddo, non mangio gara. No, dice CD, mi ha dato Luca, ma ha dato un CD, è boh, registrato. Invece dal vivo, ma c'è questo, è una cosa allucinante, c'è una gara di anguria e di gelati, uno fa che in anguria e l'altro mangia di gelati, giù giù. È un film di guerra e pace, dai, ci abbiamo capito. Ma reazione già, siamo un culi. Ma i culi forti, c'è una culietta. Ma due, è una coppia, no, che picchiamo un bel. Iniziano a mangiare, poi vanno a rompere le scatole, iniziano a picchiare, a picchiare. E è girato in una gelateria, bello, bello, bello, è molto guardando. Siamo già in 30, Angeli, siamo già in 30, mi. E beh, a Mubina, Angeli, a Mubina. Mubina, Mubina. Attenzione, mi, che scherreggia. Attento, Mubina. Capito, Angeli? Capo, aeroporto militare, già l'ho sentito, dai. Giacomo. E su, di no. Ma lo vedo di Giacomo, Ma chi io? Ma chi io è, Bobo? Ma chi io è, nipote di Giacomo, abbastanza sveglio. Perché mi svegli, Luca? Sveglio, sì, sveglio. Sveglio, sveglio. Sveglio, sveglio. No. Sveglio, SVV. No, già. Eh? Tu gli ho già detto la salute. Non mi ricordo più. Quando mi stavo addormentando. Sì. Boh, adesso un bel cazzo, ma non me ne ricordo. Ha lanciato un microfono, una cosa, via Paolo, era detto... E adesso mi giuro le stazionali e poi già lo pulisco quanto ne ho. C'è drumino, non avrei voglio più. Mi mando una mela. Ah, quello, aspetta, tu mi mangio una mela e poi la metà me la voglio più tardi. Ehi, sì, la mela è lei. Invece a me lo c'è già mai tanto da poco, qualche mese fa, stava parlando, l'ho rilanciato e non riprendeva più, dopo 5 minuti riprende, e cosa hai detto? Riprendi il coso di CQ elettronica, lo hai detto già? È il coso dell'Intec, come si chiama, il catalogo della Intec. Ho capito qual è. Se ne hanno fatto uno, una

ascolti, c'è Bobone che sta chiamando. Bobo, cosa ti stai fumando? L'erba di... Malla agricola. Vai, casa mia. Aspetta, dai, metti in moto l'elicottero, non c'ho sopra il tetto, e scendo un attimino, dai. Ma che fai? Oh. Ah, stava troppo. Tanto male non tendi. Dai, dove c'è la macchina? Allora avevo ragione io che lui era grosso, ma visto che tu gli hai dato il bullone per fare l'impianto elettrico a Chino, qui a Dio, che ci mette valori o chimico, non so che cosa. Non c'è perché lo ha vinto, cioè, e siamo giunti a lui, ci abbiamo preso un caffè e niente, cosa, cioè, è fatto a lungo a lungo. Non si immagina da Luigi che non avevi vinto. No. C'era scritto chiuso per ferie. Ci ha fatto entrare così a vedere un po'. Anzi, stava più o meno fuori. Ecco perché. Era chiuso per ferie. Riapre il 1 gennaio 2008. Sto prendendo io non già. Sto prendendo nessuno. Siamo tutti in Ramadan. È vero che ti sia dietro. Dimmi. Shoot. Maria, dove leggiate? Ma gli ho fatto? È un piccolino, eh. cominciato a mettere la galera, a giocare al gol di Chiacchierrita. Insomma, cioè, sto giocando col cane e ci mette a scorreggiare. Non credo. E poi me l'ha detto, ma cosa scorreggiare? Guglio Vesuvis mi ha detto, ma cosa scorreggiare? E scivola, mi ha schirriggia, a scivola. Gianni ha già scherreggiato. Italia. Dove è lì? Non si sa Giovanni. Cappa, cappa. Che te non c'è in macchina Giovanni? Ah, cioè, non sembra neanche andare di baracchino. Non si vuole l'antenna, no, l'antennone sulla capposta, io me ne qua. Non ho niente da dire agli altri, però mi sei vergognato veramente. Cavolo se va bene, Santiago non si qua, Anche la mia gli ha detto di, siccome c'ha stava viaggiando un giorno col padre, così me l'hanno raccontato, col padre. No, si voleva mettere nel seggiolone le cinture. E i carabinieri hanno fermato il padre a un posto di blocco. E ha detto, ma il bambino non c'ha, e guarda, è un casotto, non fa, è più forte di lui. E il carabinieri ha detto di girare le balle. Facciamo il nostro bambino, scarità. Comunque è forte, bravo dei 5 anni, guarda, ne sa più del diavolo. Duccato soprattutto. È molto duccato. Poi a dire, c'è la madre che ha detto di girarle. No, vabbè, Giova, ha ragione, cavolo, va dalla nonna brodo, a casa della madre brodo, va da amici brodo, cavolo. Periodo, con freddo. E allora al giri di rientro, sì. E ma in qualche modo lavora? È dentro di lì o questo? Yeah. Ah, il Cagliari sta perdendo 1-0 con l'Empoli. Se lo metti non sei tu, gioco qua. Senti, lì non c'è nessuno in macchina. Mamma mia, cara, io pensavo, sì, non si parli più allora qua, eh. Vabbè, anche io, no, è che, però, ti posso dire che siamo sempre i primi noi, Gappa. Vabbè, sono d'accordo con te, ma qua bisogna darci una regolata. Gappa, sempre forza Inter, non ce n'è per nessuno, io sono anti Juventino, vedi, capisco male la Roma, non me ne frega niente, il Milan, ma la Juventus non la posso vedere. Ma Gappa, viva le donne, contro i Zoma, donne piccicla. Ti sento, Benedetto, e a Trudda, ammetto. Sono travridetto, ma Angelino mi arriva più forte con le coordinate lì, io lo sento, lo accompagno a casa Angelino, lui mi ascolta lo stesso, e segnale oscillante 7, 8, ma la radio è molto bassa, 2, 1, 2, ma tu mi ascolti a me, eh? E vabbè, io qua posso aumentare, vabbè, stai il microfono basso, c'ho qua, aspetta, che cavolo, guarda che c'avevo il microfono a 3, adesso ho aumentato, te l'ho messo a 7, Gappa. Aspetta in mano, Tonellino, è massa, Tonellino, è massa, il segnale, ripeto, è buono, segnale di, aspetta che ammasso qua, mi sto facendo l'ordo. Segnale, ti ho detto, è 8, però la radio è molto bassa, esce più forte l'altro. È un bel segnale, ma ti va là quella la radio? Non so se Claudio o Franco mi ha detto che era 25 watt. Così è. Gappa, ciao Giovanni, buon rientro, buon tutto, ciao Angelino, ciao Patrizia, buon lavoro, ciao Nadia, tutta la prossima, ciao ciao, e grazie della compagnia. Ciao Angelino, ciao a tutti, dai, buona serata. Ma ascolti Bobo, sì. Sei vicino a loro, dai, vicino a te. Se sei vicino a casa di Angelino ti dovrebbe sentire, come? Appartore. Ho capito. Io ci arrivo un po' lì, Gappa. Ma giro il trimmer, non c'è problema. Fa quella voce così, ci ha fatto. Claudio. La Roma sta pareggiando 1-1. Il Cagliari sta pareggiando 2-0. Ma in casa o fuori in casa? La Roma è fuori in casa. E sta pareggiando. Buono. Se riusciamo a fisicare 3 punti, ancora 0-0, sto guardando qua, se riusciamo a fisicare 3 punti, andiamo a fare i punti con la Roma secco. Vabbè, meglio così, l'importante è che vinca l'Inter, non la Roma. Beh, no, 0-0 sempre, grazie il Cagliari, per carità. Sì, ma ci sono io, che oramai è già rovinata questa squadra, per carità. Ci hanno venduto il miglior attaccante che ci aveva l'Italia. Ha fatto un gol con l'Inter, esce Maria Gara. Sta perdendo 9-0, Gappa. La cosa sta vincendo 2-1. Sì, Alghero sta vincendo 3-0. Ma quando sai? Fuggi. Ieri, Bobo, agli eventi di Mattonis. Allora, a suo se l'ha impiantato lo zarretto a Capatera, esci Duraibulu. C'è Sandurlo? Un zarretto, il Derri. Un sussicco, ha detto che come ti cresce nei pianti, voi cresci pure un pesce. Ha piantato lo zarretto a Capatera e esci Duraibulu. Cioè, che era in molto di ascoltare il Derri. Ma magari vanno i piatti di Mininzani, di Bredu di Simolo. Tu va, i piatti di Lumacchini. Coccoli. Oh yeah. Caro Bobore, fatti avvicinando qui. 316 sono, non c'è bisogno di farlo. Qui hai lavorato quasi 16 ore al giorno. Ma può essere, mentre volte la calcolatrice, vedi. 300, 1003, 1000, quanto hai detto? 1003 diviso 316. Però faccio 300 ore diviso 316. Hai sballato, Salvatore. È impossibile. 14 ore. Dammi da me. Dammi da. C'è in plastica, buh, e beh, c'è giù. Dimmi qua. Un po'. Via. Oggi sono malattia. Diviso. È 300, diviso. Aspetta. 300. Quindi, fa culo. 15 giorni. Uguale. 4.12 4 ore e 12 minuti. E allora giudica male che non vorrei che pure la mamma mi dava 14, forse era 4.1, tagliallisco. Cazzo, lui sta perdendo 2-1. Vediamo un po', la torcia 0-0, sempre prima, 30 punti. Questa è la nuvolese, non gioca. Vabbè. Non c'è la nuvolese qua. Il 4.30 com'è rispetto al 4.40? Cosa? 4.30 com'è rispetto al 4.40? Non c'è niente. No. Ah, lui sta facendo 2-0. La nuvolese ha preso 3-0. Non c'è niente com'è? No, non c'è niente, Giovanni, c'è automemoria, non c'è niente, non c'è tastiera, non c'è nulla. È un buon ricevitore, ma non c'è niente rispetto al 440. Sì, vabbè, era solo una semplice curiosità. No, è una fregua. Non ha niente a che fare, per dire, neanche col 72C della ICO. 140, è inferiore a 140 al 430. È un buon ricevitore, ma per il resto non c'è niente. Genova, Siena, 02. Genova sta perdendo 2-0. Con Siena. Torelli, quanto è salito? Torelli?

Mi ricordo, non so dove l'ha messo, nelle aprile, più preferiti, non c'è, non c'è nessuna parte. Non riesco a farlo partire. È archivio. Io ho il archivio, vedi. Yeah.